30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. 20 anni di indipendenza, 20 anni dell'ultimo regime d'Europa che dal 1994 ha il volto di Alexander Lukashenko. È stato a suo tempo il direttore di un Sofcoz nell'85, si chiamava la Grande Fattoria dello Stato. Nell'85 si è laureato all'Accademia Bielorussa di Agricoltura. Nel 90 ha fatto il suo primo passo in politica quando è stato eletto deputato del Soviet bielorusso. A quel punto ha fondato un partito, il Partito dei Comunisti per la Democrazia. Un partito che avrebbe dovuto guidare l'Unione Sovietica a diventare un paese democratico seguendo i principi comunisti. Lukashenko, tra l'altro, sostiene che nel dicembre del 91 fu l'unico ad aver votato contro l'accordo che scioglieva l'Unione Sovietica e che proclamava la nascita del CSI. La Bielorussia, dunque, un paese di cui sappiamo molto poco, un paese di cui abbiamo una percezione estremamente ridotta. 2 anni fa una visita che fece molto discutere, quella del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, a Minsk, era la prima volta da oltre un decennio che un leader europeo si presentava nella capitale della Bielorussia. La ragione è che di fatto Minsk è un paese ai margini della società europea a causa delle continue violazioni dei diritti civili. Ma insomma, questa sera abbiamo un ospite che viene dalla Bielorussia e che è una giornalista e che ci racconta anche quanto sia complesso e perché è così complesso fare informazione in quel paese. Natalia Rasina, che è giornalista, cura la sezione bielorussa del sito di Charter 97, che vi anticipo già, www.charter97.org, incarcerata a Minsk durante gli scontri seguiti all'elezione del dicembre 2010. Allora, Natalia, perché ha dovuto lasciare il suo paese? После президентских выборов в Беларуси я была арестована и провела была посадка. Dopo le elezioni del dicembre 2010 e le proteste sono stata arrestata e sono finita nelle mani del KGB e mi hanno condannato a 15 mesi di reclusione. Lukashenko сфальсифицировал итоги президентских выборов. Lukashenko fu riconfermato presidente. Furono arrestati tutti i candidati delle elezioni presidenziali che furono comunque riconosciute valide e anche i membri dei loro gruppi di appoggio. Io sono stata arrestata sia perché lavoravo come giornalista presso il portale appunto Charter 97 che si occupa di informazione indipendente e anche perché ero a capo di un comitato contro le falsificazioni delle elezioni. Tra i candidati appunto, delle elezioni bielorusse c'erano anche Sannikov, a capo di Charter 97, e in totale sono 15 i candidati che si trovano ancora agli arresti. Questo dunque il quadro. 15 candidati delle elezioni, appunto delle ultime elezioni del 2010, quelle che per il quarto mandato hanno confermato la presidenza di Lukashenko, che ricordiamo è iniziata nel 1994. Dunque, Natalia, la situazione attuale per quanto vi riguarda, dunque, Charter 97 da dove opera? Voi avete, lei e altri colleghi sono stati costretti a lasciare il paese, allora come operate adesso? Io adesso vivo in Lituania, dove ho ricevuto lo status di rifugiata politica, e altri colleghi lavorano in Lituania, quindi parte del team di Charter 97 lavora dalla Lituania e ancora si occupa dei fatti che riguardano la Bielorussia. Parte lavora ancora in Bielorussia, ma tutto, diciamo, parte del team di Charter 97 lavora dalla Lituania e ancora si occupa di fatti che riguardano la Bielorussia. Parte è rimasta nel nostro paese rischiando perché perseguitata comunque dal regime e lavora sotto copertura. Gli episodi che sottolineano questa situazione sono molteplici, basta, come dire, cercare anche attraverso la rete, sotto gli occhi, la storia di Bare Sareschi, condannato da un tribunale di Minsk a 14 giorni di carcere per aver partecipato a una manifestazione di protesta. Ecco, ci vuole molto poco dunque per finire in carcere in Bielorussia. Ma una domanda, l'Unione Europea, l'Europa è da anni che di fatto preme sul governo Lukashenko, sullo Stato bielorusso perché le cose cambino. Ancora 15 giorni fa c'è stata un'ulteriore stretta alle sanzioni contro appunto il governo bielorusso e che ha portato il numero complessivo di cittadini, di rappresentanti del governo di Minsk sotto sanzione a circa 200, insomma diplomatici, uomini politici che come lo stesso presidente di fatto non hanno la possibilità di accedere allo spazio dell'Unione Europea. Allora la questione è quanto vale la pressione dell'Europa, quanto conta e quanto è compatta? In realtà l'Unione Europea non sta lavorando bene perché oltre alle dichiarazioni non sta realizzando delle azioni concrete che effettivamente possano fermare le azioni del regime di Lukashenko. Cosa intende per dichiarazioni concrete? Negli ultimi anni l'Unione Europea si è limitata a chiedere a Lukashenko di diventare buono. Questa è una cosa che non è possibile. Un dittatore, oltre a fare delle dichiarazioni, non cambierà il suo modo di essere solo in risposta ad atti diciamo formali. Quello che l'Unione Europea dovrebbe fare è applicare delle sanzioni economiche contro la Bielorussia. Questo sì che funzionerebbe. L'Italia è un paese che si pone contro le sanzioni economiche, ma in realtà questo metodo riuscirebbe realmente a bloccare le azioni del dittatore Lukashenko, che tiene molto ai rapporti economici con gli altri stati. E al business. Средний бизнес, который сегодня работает в Беларуси. Это первый в истории двусторонних отношений официальный визит итальянского премьера в нашу страну. И по традиции он прошел по всем канонам государственного протокола. Primo leader occidentale in Bielorussia da 15 anni a questa parte, il presidente del Consiglio Berlusconi arriva a Minsk con una delegazione di Finmeccanica interessata ad aprire nuove attività o collaborazioni nei settori dei trasporti, dell'energia e della sicurezza. Ma i temi economici non sono evidentemente il cuore della missione. Una visita, quella di Berlusconi in Bielorussia, che ha soprattutto il senso di appoggiare il processo di riavvicinamento di Minsk all'Unione Europea e alla comunità internazionale. Tanti auguri a lei, al suo governo e alla sua gente che la ama, e questo è dimostrato da tutti i risultati delle elezioni che sono di fronte agli occhi di tutti e che tutti noi conosciamo ed apprezziamo. Ecco, a proposito dell'Italia, che effetto le ha fatto la visita di due anni fa del primo ministro italiano Silvio Berlusconi a Minsk? Berlusconi prerval isolazio. Due anni fa, quando Silvio Berlusconi è venuto a Minsk, questo è stato un atto molto, molto grave, perché solo Silvio Berlusconi e il presidente della Lituania hanno riconosciuto e riconoscevano in quel momento il regime di Lukashenko, un regime che non era appoggiato da nessun altro paese europeo. E Silvio Berlusconi, premier ministro Italia. La cosa più grave è che la visita di Silvio Berlusconi servì come a giustificare il potere di Lukashenko e a dare autorevolezza anche alle elezioni in Bielorussia. Le elezioni in Bielorussia non sono mai state negli ultimi anni democratiche, non sono mai state portate avanti in modo chiaro e trasparente, e questo era quello che andava sottolineato due anni fa. Perché Lukashenko è così forte? Dal 94 è al potere e in fondo non sembra vacillare. Dove attinge la sua solidità? Lukashenko è salito al potere immediatamente dopo non solo il crollo dell'Unione Sovietica, ma anche l'indipendenza della Bielorussia. Il nostro paese non è riuscito a instaurare una vera democrazia e non è riuscito a togliere il potere a Lukashenko, che è immediatamente appunto diventato il presidente democratico di un paese indipendente. Lukashenko in questi anni è riuscito a togliere potere al Parlamento, è riuscito a togliere potere anche ai governi locali e autonomia ai governi locali. E adesso la Bielorussia è uno stato di polizia, è uno stato dove anche la giustizia è in mano allo Stato e non è indipendente. 30 minuti in cronaca. Bentornati a 30 minuti in cronaca. Questa sera torniamo dunque a parlare di diritti umani violati in Europa e lo facciamo con Natalia Razina, giornalista di Chartia 97, che dopo aver subito il carcere è ora rifugiata politica in Lituania. Proprio mentre vi parliamo, a Minsk è in corso un altro di quei processi che hanno fatto di fatto passare la definizione di Bielorussia ultima dittatura d'Europa. L'accusato questa volta è Aleš Bieliatskij, figura di spicco del movimento per la difesa dei diritti umani in Bielorussia, accusato dal regime di frode fiscale. Bieliatskij, presidente della ONG Viasna, è stato arrestato il 4 agosto scorso a Minsk in base ad informazioni sui suoi conti bancari privati trasmesse alle autorità di Minsk dalla giustizia lituana e polacca. Secondo la Bielorussia, queste informazioni dimostrerebbero che Bieliatskij ha nascosto al fisco su conti stranieri i proventi delle sue attività all'estero. Rinviato a giudizio il 12 agosto scorso, dunque, per frode fiscale, Bieliatskij, che è anche il presidente della Federazione Internazionale per i Diritti dell'Uomo, rischia dai 3 ai 7 anni di prigione. Lituania e Polonia, nel frattempo, hanno annunciato la sospensione dell'assistenza giuridica alla Bielorussia, presentato le loro scuse all'attivista. Pessimismo comunque tra gli amici dell'attivista. Pensiamo che la sentenza sarà la più dura possibile, ha detto ai giornalisti in aula il vicepresidente di Viasna, Valentin Stepanovic. Allora, Natalia Razina, torniamo a parlare degli equilibri che consentono a Lukashenko di controllare strettamente il paese dal 94. La Bielorussia geograficamente è stretta tra Polonia, Ucraina, Repubbliche Baltiche a nord e a est la Russia. Ora che un partito saldamente filorusso si è insediato a Kiev, dunque capitale dell'Ucraina, Mosca potrebbe decidere un cambiamento rispetto all'atteggiamento di appoggio incondizionato che negli ultimi 20 anni ha assicurato al suo fedelissimo di Minsk? In un certo senso sì, Mosca garantisce a Lukashenko di rimanere al potere e questo è dovuto sia al fatto che Mosca ha dato dei soldi e continua a dare dei soldi al governo di Lukashenko e è dovuto anche alle relazioni che intercorrono fra i nostri paesi legate al gas e ad altre risorse importanti per l'economia della Russia. Devo dire che negli ultimi tempi l'atteggiamento della Russia è cambiato l'atteggiamento del governo russo e adesso la Bielorussia è costretta a comprare a prezzi più cari comunque anche gas e petrolio. Questo perché il governo russo ha capito che l'integrazione della Bielorussia non è possibile e ha capito probabilmente anche che l'atteggiamento di Lukashenko non è totalmente positivo. La sensazione, come spesso accade nelle storie delle dittature, è che sarà l'economia a decidere. Сегодня в Беларуси жить тяжело, потому что очень сильно ухудшилось экономическое положение. Vivere oggi in Bielorussia è molto pesante, e questo sia per la crisi economica molto forte che sta colpendo il paese, una crisi che ha portato a un alto tasso di inflazione, a una svalutazione della nostra moneta molto pesante, che ci ha resi tutti molto più poveri. E allo stesso tempo anche la situazione dei diritti umani è sempre più tragica e critica. Molti stanno soffrendo per la repressione portata avanti dal governo di Lukashenko. La svalutazione della moneta bielorussa, dei rubli bielorussi rispetto al dollaro è aumentata in modo vertiginoso, e adesso la situazione somiglia a quella che vivono nello Zimbabwe. Рубль обвалился более чем на 80% в течение года. Parliamo allora di internet. Voi fate informazione dall'estero su una piattaforma internet. In Bielorussia oggi internet è l'unico modo per capire veramente che cosa sta succedendo all'interno del paese. Noi lavoriamo dall'estero, è vero, però aiutiamo le persone a capire che cosa succede all'interno del loro stesso paese. Non esistono in Bielorussia canali televisivi indipendenti, non esistono più radio e non esistono indipendenti, e non esistono praticamente neanche più i giornali indipendenti. Internet sta diventando molto popolare perché la gente sta cominciando a capirlo. Internet in Bielorussia сегодня достаточно популярен. Internet riesce davvero a superare le maglie della censura o c'è stata una reazione anche su questo fronte? Inizia ad avere paura di internet, si rende conto del suo potere e ha iniziato anche un'azione di repressione. Charter 97 ha sofferto molto per l'azione di repressione del governo, ha dovuto chiudere addirittura la sua sede in Bielorussia perché era stato vietato dal governo appunto il suo lavoro. Adesso per questo noi ci troviamo all'estero. In realtà quello che sta succedendo con internet è che le azioni di censura contro i siti avvengono sia da parte del governo ma anche con fatti di sangue, purtroppo. Charter 97 l'ha vissuto sulla sua pelle. L'anno scorso, sì, io sono stata arrestata, ma abbiamo anche vissuto purtroppo 3 casi di omicidio, tra cui quello di Oleg Bibin, un importante collaboratore di Charter 97. Tra l'altro anche i computer del sito che usavamo sono stati sequestrati, i computer della redazione. Quindi ovviamente questo dimostra che il governo ha paura, ma stanno cercando di intimorire anche i giornalisti. Oggi sulla homepage di Charter 97 vediamo la notizia di un processo. Chi è Bialyatskyi e che cosa rappresenta oggi? Perché è la vostra notizia di apertura? Alex Bialyatskyi è uno dei maggiori difensori dei diritti umani in Bielorussia, è a capo della maggiore organizzazione che si occupa della difesa delle vittime della repressione in Bielorussia. Io sono una dei beneficiari, diciamo, dell'azione dell'organizzazione di Bialyatskyi. I miei genitori si sono rivolti alla sua organizzazione per arrivare a comunicare con un avvocato che mi ha aiutato durante il processo contro di me. Il governo sta cercando di mettere a tacere le organizzazioni che si occupano di diritti umani in Bielorussia anche attraverso azioni legislative, e le fanno passare come strumenti diciamo pericolosi per il paese. Quando parlo di strumenti legislativi parlo anche delle nuove leggi che sono state applicate in Bielorussia e che proibiscono alle organizzazioni che si occupano di diritti umani nel nostro paese di ricevere aiuti dall'estero. Molte organizzazioni dei diritti umani bielorusse che avevano sedi o conti all'estero sono state colpite da questa legge. Spesso lo facevano per aggirare le maglie della repressione del potere, e questo non è più possibile oggi. Natalia Razina, intanto grazie di essere stata con noi. Vorrei chiederle in conclusione: la sensazione che tra repressione, indifferenza internazionale, astuzie e capacità interne, il regime di Minsk sia ancora molto solido. Questo almeno visto da fuori. È davvero così? Lei pensa, qual è viceversa la possibilità, la speranza di un cambiamento in tempi ragionevolmente brevi, magari entro la scadenza del suo permesso di lavoro in Lituania, che ci diceva la durata dei 5 anni? Люди в Беларуси, конечно, очень сильно запуганы этими репрессиями, потому что il regime in Bielorussia è molto forte, è molto crudele. I candidati dell'opposizione sono stati praticamente rapiti, c'è chi è morto perché si è opposto al regime, sia da un punto di vista politico che anche solo come comune cittadino per le sue idee. E questo fa molta paura alle persone. Tuttavia ho delle speranze sul fatto che il regime di Lukashenko finisca presto, e questo perché la situazione economica del nostro paese è veramente disastrosa. Se l'Unione Europea non verrà in aiuto della dittatura di Lukashenko, io credo proprio che il suo potere finirà presto. Grazie a Natalia Razina, collega di Charta 97, arrestata, ve lo ricordo, per aver fatto il suo lavoro, ora rifugiata politica in Lituania. Natalia ieri è stata ospite a Milano di un convegno sulla Bielorussia organizzato da Anna Viva, un'associazione che promuove la tutela dei diritti umani nell'est Europa. Anna Viva, il nome si ispira ad Anna Politkovskaya, grande giornalista russa assassinata da sconosciuti a Mosca il 7 ottobre del 2006. Tutti i dettagli sull'associazione li trovate sul web annaviva.com. E noi siamo davvero in conclusione, non mi resta che ringraziare Peter Bescapè questa sera in regia, darvi appuntamento a 30 minuti in cronaca per sabato prossimo dalle 19:30. Un saluto e buon fine settimana a tutti voi.